Aspettami sta minchia, scendimi dalla Wallera. Io sono in guerra, sono Ballanzasca nella stanza. C'ho un mitra pronto a sparare, è la mia munizione, il copione mi assale. 113 chiama pure 112 e 118, perché qui si fa il botto, botto, botto. Ne stendo 48, 33 trentini entrarono a Trento trotterellando. E dimmi te quando farai come me Diego Armando. Mai ci sono solo guai nella tua testa. Io vinco e basta, su questa ruota sono come una velina che gira per vedere se fare 100, per vedere se da 0 a 100, da 0 a 100. Next show, freestyle, dentro perso, dentro ai miei guai. Non lo sai com'è, non lo sai. Lo che cazzo dici, mi amerai. Sì, amerai sti versi contorti, ripersi, ritorsi e torsioni del piede, rimorsi. E io che vivo con te parole, osè, osè, osè. E lei da quanto era fica si vendica. Cioè dammi ancora un minuto su questa traccia, siamo già in Francia. Francia corta, metti un bicchiere, quel cameriere punta per me, punta per la svolta, fra. Sono la sindrome di Stendhal, persa in nessun dorma. Sono la vecchia de la me with you, I'm stressed again. Stresser again is not the same, it's not the same of Eminem. This is my blame, this is my blame. I see the mercy of myself in a sky of words. Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly effect. I draw my paper like a butterfly effect. Ever seen a world have an effect on reality? Maybe on my view on reality. For me, my dream is my reality. Every single letter, every single note, every single poet, every single paint I do. This is my do, this is my do. So you can sue. Bara bara bomba, rumba, rumba, rumba. Mi schiacci sti testicoli più della macumba, rimba. Canta, barilla. Poeta dello scandalo osceno, rimo veleno iniettato come ecstasy nel mio cranio, bam. Ci siamo quasi, preparerò un cucchiaio, show freestyle. This is my empty spaces in my mind. This is my growl and I'm a Chris Poor. With a low to you. Mi berrai manco fosse il grande Santo Graal. Nella coppa del poeta ci sta la verità, verità. Tu sghembala, strambala. Vedrai orizzonti, oh, che mai potrai ancora vedere se non apri quegli occhi verso Udunaki. Anunaki come il film, torno tipo la Fenice. Mentre gli rappo in bocca sta troia, gli metto in dentro fibroga. Pure accendi sta canna, ma su sta canna, su sta canna. Sono passati 2000 accendini fa. Ora la sperla te la do io, ma a rallentatore. Sono un guerriero, sono un dottore. Sono un guerriero, sono un dottore. sogni. Bra, dottore di sogni. Bra, dottore di sogni. Bra, bra, bra. Il prossimo che si farà lei, ehi, in delay, magari sui pezzi miei, ehi, finirà fuori di testa. Questo è il Dariol che rappa in una stanza. Frissa e basta, ta, ta, ta, ta, ra. Ti verrà a te la cataratta. Pa, pra, come va? Non c'è competizione, spingo, capello biondo, ma